Due. Seduto in poltrona, Jonas Klug ridacchiava nella penombra. Una lama di bagliore lunare colpiva l'ingiunzione di sfratto che teneva tra le mani. Estasiato la rimirava, benché al buio non potesse leggerla né distinguere le righe. La accarezzava, passando i polpastrelli sulla grana del foglio. L'annusava come la lettera di un amante intrisa di profumo. Profumo di ricchezza, profumo di terra, di futuro. Gli indiani, invece, puzzavano di passato. Jonas Klug era il ticcio. Aveva festeggiato. La pendola del soggiorno segnava le 11:05. La moglie già a letto e anche i domestici. Ubriacare i Mohawk era stato facile. Scorrevano torrenti di rum in quella che chiamavano la Lunga Casa, la terra delle sei nazioni irochesi. Uomini e donne sguazzavano in pozzanghere d'alcol. Come e più dei bianchi, i selvaggi ubriachi perdevano ogni ritegno. Ridevano fino a slogare le mandibole, si piegavano in due perdendo l'equilibrio, cadevano e rotolavano nella polvere, oppure schiumavano di rabbia, attaccavano brighe che diventavano pestaggi, che diventavano ammassi di corpi furenti. Uno dei loro capi era morto così, da sbronzo, cadendo nel fuoco. Se il rum stava mandando in rovina le sei nazioni, perché non trarne vantaggio? Klug era un uomo d'affari. Aveva visto una distesa di terra buona, a est del villaggio. 5.000 acri di bosco e radure pianeggianti, con sparse baracche indiane e campicelli di fittavoli bianchi, irlandesi o scozzesi papisti, che pagavano i Mohawk in natura. Klug era tedesco. 20 anni prima era sbarcato a New York con le pezze al culo. Anni di servitù a contratto, a spalare la merda degli altri, poi il riscatto, la libertà, il viaggio verso l'interno e infine la terra. Quanta non ne aveva mai immaginata. Si era spaccato la schiena. Aveva dissodato e costruito nella speranza di scacciare la miseria per sempre. Poi era venuta la guerra tra Inghilterra e Francia. Una stagione di terrore, barricati in casa per paura delle scorribande indiane. Alla fine, pace e prosperità erano arrivate. Jonas Klug aveva persino acquistato una famiglia di schiavi che zappava la terra al posto suo. Adesso anche quei 5.000 acri erano suoi. Coi soldi che aveva da parte, poteva costruirci un mulino, una seconda fattoria, vendere il legname, seminare orzo e segale, produrre birra e whisky, allevare bestiame. Oppure poteva rivenderla. La legge, quel poco di legge che c'era, stava dalla sua parte, la parte giusta. Dio non proteggeva i selvaggi. Gesù era bianco, non indiano. Gli indiani volevano solo altro rum. I sakem più sobri si erano pronunciati spesso contro l'acqua del diavolo e anche il vecchio, prima di crepare, si era occupato del problema. Come dire che si erano pronunciati contro il respirare e William Johnson, baronetto protettore degli indiani, s'era occupato dell'aria. Il rum era dappertutto ed era lì per rimanere. Semplice come bere un cicchetto. 3 anni addietro Klug aveva fatto sbronzare l'indiano giusto, il più stupido e sbruffone, Lemuel qualcosa e altri suoi compari, idioti quanto lui. Mentre erano sbronzi, prima che vomitassero anche le tonsille, avevano firmato la cessione. Con una bella X da analfabeti, tanto valeva lo stesso. Non che Klug fosse uomo di lettere, ma sul poco che sapeva, molto aveva costruito. Nel contratto, Lemuel e compagnia si dichiaravano rappresentanti legali degli abitanti di Cana Yoharie, proprietari della terra. Una specie di consiglio di tribù, roba da selvaggi. In virtù di questo, cedevano 4.000 acri per il controvalore di 2 casse di rum. X, X e X, di fronte a testimoni. Beneficiario Jonas Klug. Poco tempo dopo, in una notte di luna piena, aveva mandato un agrimensore amico suo, che era andato largo coi rilievi, 1.000 acri in più rispetto al contratto. Quindi aveva spedito il tutto ad Albany e in capo a un anno era arrivato l'atto di proprietà. Brutto risveglio per i selvaggi di Capo Sbornia. I Mohawk avevano fatto ricorso, dicendo che Jonas Klug aveva agito in malafede, che solo i Sakem potevano firmare un contratto del genere e che la trattativa si era svolta senza un interprete ufficiale. Avevano smosso mari e monti, si erano appellati al loro baronetto, al governatore Tryon, alla corona d'Inghilterra, e petizioni in tribunale, e altre proteste, e minacce di scendere sul sentiero di guerra. Figurarsi se un tribunale poteva dar torto a un onesto coltivatore contro una torma di pelle rossa. Klug non era solo. Aveva chi poteva proteggerlo, e gli indiani lo sapevano. Per questo parlavano e parlavano, presentavano appelli come tanti avvocaticchi unti di grasso d'orso, ma non passavano all'azione. Molti coloni ammiravano Klug per quel che aveva fatto. C'era chi non vedeva l'ora di regolare i conti coi selvaggi, gentaglia fetida che quando aveva fame ti entrava nel granaio o ti coglieva le mele dall'albero, neanche fosse roba loro, e se non stavi attento ti vomitava pure addosso. Dio non poteva aver concesso a primitivi miscredenti un diritto su quelle terre. Klug li odiava. Ancor più odiava chi li proteggeva, il dipartimento indiano e il clan De Johnson, con la loro corte di pizzi, merletti e porcellane. Soprattutto quella strega, Molly Brandt, la puttana del vecchio Sir William, coi suoi figli mezzo sangue. Un giorno cipri e capelli piumati, il giorno dopo conchiglie e pittura di guerra. I loro feudi si estendevano per centinaia di migliaia di acri, a Onondaga, Sacondaga, Schenectady, Kingsborough, Albany, Shawharie, in combutta con le sei nazioni e re Giorgio d'Inghilterra. Klug conosceva bene i latifondisti arroganti e intrallazzoni. Suo padre aveva consumato la vita a coltivare i campi di signori come quelli. Klug era emigrato per non trovarseli più sulla groppa, invece comparivano anche lì. Una maledizione in terra. Lemuel e i suoi amici chissà dove erano finiti, non li aveva più incrociati. Probabile che i loro fratelli li avessero pestati a sangue, forse ammazzati o cacciati dal villaggio. Chissà, magari erano scappati a ovest, erano diventati vagabondi, ma le dicevano ogni giorno la volta che si erano sbronzati e per dimenticare tornavano a bere. La terra sarebbe stata sua per sempre, finché avesse voluto. La notifica di sfratto che teneva in mano, convalidata dalle autorità competenti, era l'ultimo passaggio, il più atteso. Un calcio nel culo a Joseph Brandt e all'anima di William Johnson che bruciava all'inferno. Per questo Jonas Klug ridacchiava nella penombra. Poi la pendola batté le 11. Di nuovo silenzio. Klug sentì un rumore. Joseph Brandt l'aveva detto al governatore. La pazienza dei Mohawk era al limite. La sua, a dire il vero, era esaurita da un pezzo. C'era anche la sua tenuta su quei 5.000 acri. Al villaggio gli animi erano esasperati. Quello di Klug era soltanto l'ultimo di una lunga serie di raggiri messi in atto dai coloni per rubare la terra ai Mohawk. Thayendanegea, Lega Due Bastoni, battezzato col nome di Joseph Brandt, non era di quelli che si lasciavano ubriacare. Era un reduce della guerra franco-indiana, un uomo rispettato, l'interprete del dipartimento indiano. Il governatore Tryon aveva promesso di fare il possibile, ma la situazione non era cambiata. Anzi, le cose volgevano al peggio. Un avvenire, orfano e nero, colpiva alle spalle la nazione. I guerrieri scalpitavano, obbedivano ancora ai Sachem, ma li ritenevano troppo cauti. Non era roba da tribunali, quella. Sir William non c'era più e molti volevano risolvere la faccenda alla vecchia maniera, esporre lo scalpo di Klug tra i trofei di guerra. Joseph aveva proposto un'alternativa. Non voleva finire i propri giorni da povero. La terra e quello che c'era sopra appartenevano a lui e alla sua gente, da sempre alleata del re. Ma non voleva nemmeno che il colpevole passasse per vittima. Con la dovuta pressione avrebbe ottenuto giustizia per sé e gli altri, nel rispetto della legge inglese. Il concilio del villaggio gli aveva dato carta bianca. Intorno alla casa di Jonas Klug erano una dozzina. Joseph scivolò sul lato. I compagni alle spalle fremevano. Si erano avvicinati sotto vento e avevano avvelenato i cani. Due guerrieri erano rimasti a tenere a bada gli schiavi africani che dormivano nella casupola in fondo alla tenuta. Una mezza dozzina di derelitti che Klug teneva peggio delle bestie. Non avrebbero dato problemi. Joseph guardò la propria immagine riflessa nel vetro della finestra. Due ore di marcia non sembravano aver compromesso l'effetto dell'abbigliamento. Giacca da cacciatore con bottoni di corno, pantaloni di pelle e stivali da cavallerizzo. Alla luce della luna, la figura non era più di un instabile profilo tracciato nel vetro, un'ombra con il proprio seguito d'ombre. Sarebbe apparso di fronte al tedesco come uno spirito dei boschi. Prima di mettersi in marcia, Joseph aveva passato in rassegna il drappello. David Roya Tacarillo e due giovani del clan dell'Orso si erano dipinti il volto. Joseph si era limitato a mormorare qualcosa a bassa voce, scuotendo il capo. Impossibile capire cosa passasse per la testa dei giovani. Del resto, finché non combinava idiozie, ognuno aveva diritto di acconciarsi come credeva giusto. Certo, le pitture testimoniavano una cosa: voglia di guerra. Jacob Bowman Kanatawakon, August Sakienakenta e un altro paio del clan del lupo erano i più fidati. Tutti sembravano abbastanza sobri, a parte l'ultimo convenuto, Johannes Tekarioga. L'uomo più nobile di Kana Yoharie s'era presentato al ticcio. Puzzava di rum e tirava lunghi sorsi dalla borraccia, offrendone anche agli altri. Joseph aveva impiegato un intero pomeriggio per convincerlo a partecipare. La presenza di un personaggio del suo rango dava legittimità alla spedizione. Se il vecchio Sahem si fosse addormentato lungo la strada, l'avrebbero raccolto sulla via del ritorno. Joseph si erse in tutta la figura, fece cenno alla fila di guerrieri di scostarsi dalla parete e a grandi passi coprì la distanza che lo separava dall'ingresso. Si fermò davanti alla porta, inspirò. L'aria notturna gli riempì i polmoni. Il petto si allargò sotto la giacca, provò una sensazione fredda e profonda, compiacimento. Il suo aspetto era elegante e marziale. All'interno un lume acceso, Klug era sveglio. Meglio così. Joseph batté sulla porta con la testa d'avorio del bastone da passeggio, antico regalo di Sir William. «Jonas Klug, apri la porta! Apri o la sfondiamo!» I guerrieri rumoreggiavano. Qualcuno emise grida di battaglia. Joseph immaginò il tedesco spalancare la porta e sparare alla cieca. Impossibile. Klug teneva la pelle. Avrebbe cercato di tergiversare. La porta si socchiuse. Joseph spinse le assi di legno con la suola dello stivale. Klug, terreo, si offrì alla vista degli indiani. «Che fate qui? Che volete?» Per tutta risposta, Roya Takarillo scostò Joseph e si avventò sul tedesco digrignando i denti. «Che facciamo qui, eh? Tu cosa credi?» Le mani dell'indiano serrarono la gola di Klug. Il tedesco annaspò, emise un grido stentato mentre Joseph cercava di liberarlo dalla stretta dell'aggressore. Quando ci riuscì, Klug si accasciò tra colpi di tosse. La moglie scese le scale con in braccio un fucile. Provò a puntarlo, ma Kanatawakon afferrò la canna e la spinse in alto. Il colpo centrò il soffitto. La signora iniziò a urlare come un'ossessa, imitata dagli indiani. Per un momento sembrò che facessero a gara a chi lanciava le strida più acute. Poi la donna si ritirò al piano di sopra, tra le braccia delle domestiche. Klug intanto provava a sottrarsi al suo destino, sgattaiolando via a quattro zampe. Gli indiani gli furono addosso. «Non in testa!» ordinò Joseph. Sulla schiena e sulle gambe del tedesco grandinarono colpi. Quando ritenne che ne avesse prese a sufficienza, Joseph strattonò via i guerrieri. Basta così, ho detto!» Si chinò su Klug e gli sventolò un foglio davanti al naso. «Questa è una dichiarazione scritta in cui voi, signor Klug, ammettete di aver sottratto con l'inganno la terra alla mia gente.» Con l'altra mano agitò il bastone. «Questo è solo un assaggio. Vedrete cosa vi tocca se non firmate.» Si era preparato il discorso nei giorni precedenti. Suonava bene.